Letture di Radio 24. L'immediato rilascio di Dominique Strauss-Kahn, dopo che le accuse nei suoi confronti si sono rivelate inattendibili, è l'ennesima dimostrazione di come negli Stati Uniti, a differenza di ciò che avviene in Italia, chi ha commesso degli errori giudiziari ne paga le conseguenze. Non è chiaro se ci sia un nesso diretto tra le due cose, ma colpisce che Lisa Friel, da 10 anni a capo dell'unità per i crimini sessuali della procura distrettuale di Manhattan, abbia lasciato il suo incarico proprio mentre crollano le accuse di stupro contro Dominique Strauss-Kahn. Negli Stati Uniti, chi si è reso responsabile di errori giudiziari comunque paga. In Italia, invece, altro che dimissioni. Chi ha perseguitato Enzo Tortora con inchieste fantasiose, sebbene sorrette dalle penne migliori del giustizialismo giornalistico, ha conosciuto i fasti di brillanti carriere. Lucio Di Pietro è meritatamente diventato procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia e procuratore generale a Salerno. Felice Di Persia ha raggiunto meritatamente lo status di membro del CSM e di procuratore capo a Nocera Inferiore. Diego Marmo è diventato procuratore generale presso il Tribunale di Torre Annunziata. Luigi Sansone, presidente di Cassazione. Orazio Gattola, presidente di sezione a Torre Annunziata. Povero Tortora. La giustizia è più garantista negli Stati Uniti, malgrado l'abominio della gogna forcaiola della Purple Walk. Gli errori, lì, si pagano. Non c'è soggezione nei confronti di chi conduce le indagini. Se un testimone o chi accusa qualcun altro di un crimine esce distrutto nella sua credibilità, non ha più chance. Non lo si può tenere in sala d'attesa a tempo indeterminato, gratificato di uno status ambiguo a seconda delle convenienze dell'accusa. In America. In Italia il signor Ciancimino Junior ha potuto veleggiare per un sacco di tempo nell'ambivalenza della semi-credibilità. In Italia la figura del testimone non credibile viene protetta oltre ogni limite da chi non vuole rinunciare a una carta preziosa per incastrare gli indagati. E così, solo quando la patacca Ciancimino è esplosa, il magistrato Ingroia ha dovuto ammettere che le cose dette da un accusatore così poco presentabile provenivano da una fonte troppo sospetta. Chi voleva così tanto? In America, chi conduce un'inchiesta e si accorge che le accuse appaiono fragili, infondate, lacunose, lo ammette apertamente e lealmente. Non convoca conferenze stampa per difendere l'indifendibile. Non si reca nei talk show per sostenere una tesi che andrebbe discussa in ambito giudiziario, non nell'arena mediatica. Uno dei magistrati dell'ultima calciopoli ha avuto l'ardire di dichiarare: «Ho la sensazione di incontri truccati in Serie A». Una sensazione. Ma un magistrato deve cercare prove, documenti, testimonianze. Non deve andare a caccia di sensazioni. Non è il suo mestiere. Parlando a 8:30, il capo della procura napoletana Lepore, che si sta occupando della cosiddetta P4, ha voluto manifestare la propria opinione a prescindere dai reati contestati. Ma non dovrebbe occuparsi solo dei reati contestati e nelle sedi opportune, per di più? Negli Stati Uniti una dichiarazione del genere sarebbe inimmaginabile. Meglio l'America o l'Italia? Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, La cameriera di Dominique Strauss-Kahn e Ciancimino Junior, dal Corriere della Sera del 4 luglio. Letture di Radio 24. Quando Strauss-Kahn è stato arrestato con l'accusa di stupro, molte femministe si sono scagliate su di lui, dando per scontato che fosse colpevole. Ora che è stato scagionato, qualcuna di loro è rimasta delusa e non accetta il ribaltamento dell'accusa. Erika Young, ad esempio, ha parlato di vittima trasformata in colpevole, riferendosi alla cameriera del Sofitel. Ma si tratta della solita follia femminista di credere ogni uomo un porco, commenta Anna Maria Bernardini De Pace. Anch'io sono stata femminista, ma lo ero in un momento in cui era funzionale l'esserlo, per rivoluzionare il pensiero giuridico e sociale che relegava le donne oltre i confini del diritto e della dignità. Poi basta. Oggi, acquisita la pari dignità giuridica dei sessi, ognuna se la crea e se la distrugge da sola. Il continuare a recitare il copione del vittimismo e della obbligatoria solidarietà a qualsiasi donna e a ogni costo è non solo ridicolo, ma irrispettoso dell'indifferenziato genere umano. Le affermazioni di Erika Jong, dunque, che si indigna perché Strauss-Kahn è stato liberato e perché una serie di sospetti osa ammantare la credibilità della sua accusatrice, sono proprio imbarazzanti. La tesi della scrittrice, nota come educatrice delle donne per aver ideato l'opportunità e il diritto di ciascuna alle scopate senza cerniera, si fonda sul superatissimo garantismo sessista, per cui l'uomo è sempre carnefice e la donna sempre sua vittima. Si basa altresì sulla sua vetusta idea di garantismo sociale, in forza del quale il povero in tribunale non può avere ragione quanto il ricco a causa del costo carissimo degli avvocati. Per questi motivi, la povera Ofelia avrebbe sicuramente subito uno stupro, giacché lei semplice cameriera e l'aggressore uomo di potere, perché è una donna fragile, preda del solito maschio feroce. Questo è appunto garantismo d'accatto, antistorico e irriguardoso sia delle donne sia degli uomini. È vero che nel mondo abbondano ancora uomini carnefici e donne vittime, ma è altrettanto vero il contrario. Molto più che un tempo, ci sono donne che usano il proprio sesso e la spesso patetica sessualità maschile per interesse, vendetta, potere, per soldi, in linea di massima. Dalla prostituta di strada, quella che si definisce escort, fino a quella che non si definisce ma è puttana lo stesso, ci sono tantissime donne che sfruttano il loro noto luogo di potere perché lo sanno ambito dai poveri maschi imbecilli. Ciò non vuol dire che una di queste o una di tutte le altre non possa un giorno essere o essere stata stuprata da un maschio più idiota e violento degli altri, ma certamente non significa neppure, come sostiene la Jong, che bastino le parole di una donna e il DNA dell'uomo nel suo corpo per accusare legittimamente di stupro chi che sia. Tanto più quando i riscontri soggettivi sull'accusatrice sono tutti di segno negativo per la sua attendibilità. Ofelia mente più volte agli inquirenti, svolge la doppia attività di cameriera d'albergo di lusso e prostituta, proprio per trovare clienti danarosi da cogliere sul fatto, viene intercettata mentre assicura un complice di avere tra le mani il pollo da spennare. Ne vale l'ulteriore, gratuita ma inutile difesa della Jong, convinta che in America vinca chi è ricco e possa pagarsi gli avvocati più bravi. Lei, Ofelia, peraltro, aveva dalla sua sia l'avvocato che poteva ben pagare, sia tutta la procura, agguerrita e gratis. Con cinico populismo e sgangherata riproposizione di concetti ormai superati dall'onorevole rivoluzione femminile, è invece la Jong a sfruttare l'occasione per ritagliarsi qualche riga di stampa, non mostrando paura di volare, neppure così in basso. La Jong ha perso l'opportunità di apprezzare invece la rapidità e l'onestà del sistema americano, così ossequioso del contraddittorio e della pari dignità tra accusa e difesa, tra imputato e vittima. Diversamente da quanto succede in Italia, dove non essendoci la separazione delle carriere, molti confondono ancora i magistrati tra loro, per cui ciò che dice un PM, l'accusa, appare avere la stessa forza risonante della decisione del giudice, perché entrambi appartengono al potere giudiziario, e certamente meno valore delle parole di un avvocato. Che pagato caro o non pagato per nulla, nell'immaginario di tutti è qualcuno che deve inventare per vincere. In America, invece, la verità ha un valore sacrosanto per tutti e per tutte le parti in gioco. Chi mente, alla fine viene bollato come perdente. Ecco perché la procura di New York non ha perso tempo a riconoscere pubblicamente la perduta aurea di povera vittima di cui era stata gratificata Ofelia, obiettivamente autoscreditatasi per essere stata beccata col topo in bocca della menzogna. Se solo i PM e gli avvocati italiani facessero altrettanto coi denuncianti inattendibili e clienti bugiardi, sarebbero risolti tutti i problemi della giustizia legati ai tempi lunghi del processo. In ogni caso, l'America, dopo 2 mesi dal fatto, ci farà sapere tra 15 giorni se si è trattato di uno stupro a danno della cameriera o a danno dell'uomo. E da Erika Jong penso che tutti, uomini e donne, in un caso e nell'altro, dovremmo aspettarci delle scuse, perché vi sono alternative certe all'uomo violento e alla donna vittima, ed è di questa alternativa che è fatto il mondo, altrimenti perderebbero di senso sia la verità, sia la giustizia, sia soprattutto il valore incommensurabile da difendersi sempre della dignità di ogni singola persona, di qualunque sesso e di qualsiasi condizione sociale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Anna Maria Bernardini De Pace, Domenica Strauss-Kahn e la follia femminista di credere ogni uomo un porco, dal Giornale del 4 luglio.